San Giovanni Bosco, qui ci sono tra voi alcuni ex allievi di Don Bosco, me compreso, che cosa hanno insegnato a me i salesiani, figli di Don Bosco, per la durata di quasi 7 anni, 6 a Trento, via Barbacovi, e quasi 1 anno a est di Padova. Che cosa mi hanno insegnato? A stare allegro. Perché dicevano quelli che avevano proprio conosciuto personalmente San Giovanni Bosco? Quando San Giovanni Bosco, attraversando uno dei cortili di Valdocco, Torino, vedeva qualche ragazzo imbronciato, diceva: no, amico mio, come mai sei imbronciato? O tu hai mal di testa e vai in infermeria a farti dare qualche medicina. O tu non stai bene nell'anima. Ci sono sempre dei sacerdoti che possono confessarti qui nella cappella di San Francesco, vai. Ma col broncio no, sai. Un ragazzo col broncio è nel mirino di Satana. È così. Ditemi adesso voi, confidenza, quando eravamo giù di tacco, cosa abbiamo combinato? Io me ne intendo un po' di giovani, perché la mia missione è quella, e me l'hanno insegnato loro. Quando i ragazzi sono giù di tacco, ecco il maledetto vizio della masturbazione. E gli adulti vanno all'osteria, si danno all'alcol. Adesso i giovani, e anche purtroppo i non più giovani, si danno alla droga, con il rischio di perdere inesorabilmente il comando del cervello. San Filippo Neri, padre Pippo lo chiamavano, l'apostolo dei giovani di Roma, non sentiva chiasso nei cortili, nei suoi cortili dove voleva che giocassero tutti i giovani di Roma. Oh ragazzi, scrupoli e malinconia, fuori di casa mia. Se venite qui, qui dovete giocare. E quel Don Bosco diceva: ragazzi, cercate di spaccarmi meno vetri che potete, però piuttosto di vedervi imbronciati. Questa è la pedagogia del Vangelo. Vi ricordate quella volta che quei brontoloni, proprio come mosconi, che ronzavano nelle orecchie di Gesù, quei farisei, quei sadducei, quella gente che aveva dell'astio contro Gesù, perché Gesù parlava chiaro e diceva bianco al bianco e nero al nero. Gli hanno detto: oh, guarda, i discepoli di Giovanni il Battista digiunano, fanno penitenze, tirano cinghia. E come mai Gesù di Nazaret, i tuoi discepoli mangiano e bevono? Oh, che bella risposta. Noi siamo tutta gente che è a nozze, io sono lo sposo, questi sono i miei amici, ma volete voi che i miei amici alle mie nozze digiunino, tirino cinghia? Ah no, poteva dire: il mio primo miracolo l'ho fatto per cambiare acqua in vino eccellente alle nozze. Ma si poteva anche finirlo quel banchetto di nozze con un po' di acqua minerale, un po' di acqua fresca. No, dice il Signore, è Lui lo sposo divino della nostra natura umana. Nella sua incarnazione Lui, figlio di Dio, diventa figlio dell'uomo, restando figlio di Dio. Sposa la natura umana, per cui Lui è il nuovo Adamo e noi siamo i figli di questa generazione nuova. Figli adottivi di Dio, figli nel Figlio, che è fratello, sposo, padre, amico, tutto. Come ha risposto bene. E il cristiano imbronciato fa disonore al suo cristianesimo. Il cristiano con le mani nei capelli disperato, disonore il suo battesimo. No, noi non possiamo essere tristi, mai, mai, ne manco al sopraggiungere di notizie tragiche. No, Ricordo sempre, mi trovavo in una famiglia di contadini, non so per quale ragione, quando venne a scoppiare un temporalaccio di quelli proprio di luglio, agosto, e giù tempesta, e due figli di questo papà di famiglia, guardando dalla finestra, imprecavano contro il cielo, contro tutti. Il papà a dire: «Oh, ragazzi, non bestemmiate!» Se abbiamo ricevuto il bene da Dio, perché non dobbiamo ricevere anche il dolore? Saprà Lui perché!